Ehi! Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Basta aiuti alla Fiat, parla Sacconi. Marchionne ha chiesto aiuti di Stato per la Fiat e un taglio delle tasse per i lavoratori. Io sono contrario ad entrambi. Basta con gli aiuti alla Fiat. Questo è il titolo, intanto dagli studi di Radio 24, un saluto da Bruno Perini. In regia con noi stamane c'è Carmelo Lauricella. Il titolo è del Riformista, il Riformista in nuova veste, l'avevamo già annunciato, è uno dei giornali che oggi si presenta in edicola con 32 pagine, quindi un grosso salto editoriale da 8 pagine che aveva, e Antonio Polito è sempre il suo direttore ed è tutto nuovo, effettivamente più diciamo popolare come anche stile grafico. E l'apertura del Riformista di oggi è proprio su questo tema: mentre il governo riflette sugli strumenti da usare per aiutare le imprese ad affrontare la frenata dell'economia, il ministro del welfare Maurizio Sacconi fissa alcuni paletti sugli eventuali interventi statali, replicando all'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne, che proprio sul Sole 24 Ore ha chiesto interventi a sostegno del settore automobilistico e sgravi fiscali per i lavoratori. Sacconi esprime chiaramente la sua contrarietà ad entrambi. Basta aiuti alla Fiat, dice al Riformista. Il ministro Sacconi è invece favorevole ad altri tipi di sostegno alle imprese, propone di estendere, concordandolo con le regioni e le parti sociali, la cassa integrazione a tutte le aziende che ne avranno bisogno. Ecco, questo è un'altra novità registrata dal nuovo, chiamiamolo così, dal nuovo Riformista in edicola da stamane. Ora, il Riformista di oggi, primo passo Antonio Polito in una intervista ha detto: siamo passati dall'asilo all'elementare, adesso iniziamo la scuola elementare, basta con insomma i grembiulini e via. Ora le novità sono per esempio il bestiario di Giampaolo Pansa, che ha abbandonato l'Espresso e è diventato editorialista del Riformista. Oggi scrive Pansa: l'Italia che dice tutti al muro. Tutti al muro, urlava così la scritta che mi ha sorpreso all'ingresso di un borgo toscano. L'aveva tracciata sull'asfalto una mano sicura e sembrava molto recente. Ho chiesto a un anziano del posto quando è comparsa, poco dopo l'inizio di ottobre, e chi dovrebbe essere messo al muro? Lui ha ridacchiato: quelli che hanno fatto il pasticcio che stiamo vedendo, i banchieri e gentaglia così, ma anche i politici che non l'hanno impedito. Dice: i media conoscono poco di quanto sta accadendo nella testa della gente, frequentare la strada fa intuire qualcosa di più e quel che intravedo mi spaventa, dice Giampaolo Pansa. Poi il criticando in questo articolo Pansa soprattutto la sinistra, centro-sinistra, i personaggi sono sempre gli stessi, D'Alema, Veltroni, Fassino, e poi però anche alcune critiche al centrodestra. Vi dicevo, il Riformista poi affida a Fabrizio D'Esposito un servizio inchiesta, pagina 5, dal titolo Cesare e i Cesaroni, Previti sta in ombra ma il suo potere no. Consulta. Oggi a mezzogiorno la maggioranza potrebbe candidare Donato Bruno al posto di Pecorella. È un previtiano di ferro, la dimostrazione che l'influenza dell'ex ministro della difesa non è mai tramontata su Palazzo Grazioli. Tuttora la sua rete di rapporti è estesa e pesa parecchio alla corte di Berlusconi, soprattutto quando si parla di giustizia. Tutti gli uomini dell'avvocato, c'è una mappa sostanzialmente degli uomini dell'avvocato Cesare Previti. La Fabrizio D'Esposito dice: beh, insomma, qualcuno pensava che Cesare Previti fosse stato scaricato, ma un ex ministro berlusconiano spiegò invece a microfoni spenti: Berlusconi non avrebbe mai dato la soddisfazione ai bastardi giustizialisti di votare sì alle dimissioni di Previti. È ancora uno dei suoi migliori amici. E poi, per chi fosse interessato, effettivamente un'intervista interessante, quella di Camillo Ruini, La sua nuova vita è un libro per Mondadori, Così diventai un prete, e sono due pagine dedicate missione per conto di Dio, confessioni dal suo buon ritiro fuori le mura vaticane. Il cardinal Sottile ripercorre gli anni passati alla guida della CEI e al vicariato di Roma, e ci sorprende col racconto di come divenne prete, delle passioni poco note come quelle per lo sport. Ora, diversa ma non così radicale ovviamente la riforma del quotidiano Il Giornale. Il Giornale ha una nuova veste grafica e Mario Giordano scrive: cambiamo per rimanere noi stessi, un giornale nuovo. Effettivamente la riforma del Giornale non è come quella del Riformista, le pagine sono le stesse, diciamo, c'è però davvero una diversa impostazione. Il titolo è: ecco gli italiani che odiano l'Italia, razzisti, ma che, guidiamo le classifiche dell'integrazione, sfaticati, lavoriamo più dei giapponesi, eppure i giornali e le televisioni sono pieni di gente che non perde occasione per denigrare il nostro paese. Questo. Vi è poi un'intervista di Giancarlo Perna, ritrattista del Giornale da sempre, che intervista fa raccontare a Bruno Vespa: io anomalo perché non sono di sinistra. Vespa racconta al Giornale la sua carriera: il mio stipendio 1,2 milioni di euro. Questo sul quotidiano Il Giornale, vi ripeto, rinnovato graficamente, un restyle grafico molto evidente. In famiglia spese tagliate, la congiuntura negativa costringerà 2/3 degli italiani a ridurre gli acquisti di prodotti e servizi. Come già avete sentito dal GR, il Sole 24 Ore ci propone stamani in apertura di prima pagina una inchiesta interessante, a mio parere, su un'analisi, diciamo, del bilancio domestico. È una specie di vivisezione del bilancio domestico. Vediamo: le famiglie tagliano la spesa, i consumi sono già in calo, 2 italiani su 3 prevedono che presto dovranno ancor più ridurre gli acquisti di alcuni prodotti e servizi. A rivelarlo è un sondaggio di IPR Marketing che segnala quanto la congiuntura negativa incida sul budget domestico. Una conferma arriva da una ricerca del Sole 24 Ore Ufficio Studi Sintesi, che ha calcolato in media quanti giorni di lavoro al mese occorrono per pagare i consumi familiari. Ed ecco alcune cifre che ci propone il Sole 24 Ore: consumi 22,5 giorni, casa, alimentare, trasporti e comunicazioni, per pagare il conto di queste spese servono 22 giorni al mese, invece tasse 8,4 giorni, IRPEF, addizionale e altre tasse locali servono almeno 8 giorni per saldare il debito con l'erario e, ai noi, 0,1 giorni per i risparmi. Quanto resta in tasca dopo aver pagato tutto? Pochi spiccioli, l'equivalente di 2 ore e mezza. Il Sole 24 Ore propone anche un altro tipo di inchiesta servizio, a questo anche un po', come dire, importante per quanto riguarda le imprese. Il Sud rischia di perdere 10 miliardi di fondi europei. Alla fine di dicembre le risorse non usate tornano a Bruxelles e mancano poco più di 2 mesi al termine entro cui spendere i fondi UE 2006-2006. Ecco, questa è un'altra degli aspetti critici del rapporto con la UE. Voglio ricordarvi, tra le altre cose, che proprio oggi sul Sole 24 Ore Paolo Legrenzi firma, a proposito delle famiglie e della riduzione dei consumi, un commento dal titolo Il ritorno della frugalità, e sarà proprio Paolo Legrenzi l'ospite stamattina Dietro la Notizia, la trasmissione condotta dal direttore Gianfranco Fabi, alle 8:30, sul tema della spesa degli italiani, e ci spiegherà probabilmente cosa vuol dire il ritorno della frugalità. Ora, se però cambiamo argomento e andiamo ai grandi temi internazionali, mi cade l'occhio sul quotidiano La Repubblica. Schiaffo a Bush, Powell per Obama. L'ex segretario di Stato repubblicano: sto con lui. McCain recupera. Questo vi è anche un editoriale del vecchio soldato, il tradimento del vecchio soldato. Il vecchio generale torna in guerra, scrive Vittorio Zuccone. Per salvare il soldato Obama, Colin Powell, il più grande rispettato ufficiale e statista afroamericano della storia USA, muove contro un reduce del Vietnam come lui, John McCain. Lo fa da ufficiale gentiluomo, con dignità, con autorevolezza, quasi con dolore, con i sentimenti e gli atteggiamenti che mancano alla sempre più sguaiata campagna elettorale repubblicana. Ci sono altre due cose da segnalare rapidamente sulla Repubblica, significative per l'orientamento politico di questo giornale. Uno, è sicuramente la presa di posizione Veltroni della notizia, Veltroni con Di Pietro è finita, e ci sono due cose su questo punto. Intanto c'è un'intervista di Pietro. Un'intervista di Pietro che replica abbastanza pesantemente a Walter Veltroni, dicendo: Walter è patetico, ma io non rompo, sabato al Circo Massimo ci sarò. Sentirlo prendersela con me anziché con Berlusconi e il governo è davvero patetico, ridicolo, se non fosse drammatico. Queste le parole di Antonio Di Pietro, che incassa da fondo i Veltroni, che a sorpresa alla trasmissione di Fazio ha dichiarato rottura con lo stesso Di Pietro. E vi è poi una presa di posizione di Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica, che palesemente si schiera con Veltroni. Il lungo addio tra Partito Democratico e Italia dei Valori si è infine consumato, scrive Giannini. A una settimana dalla manifestazione del 25 ottobre, la rupture decretata da Veltroni è per il centro-sinistra un atto costitutivo di igiene politica e un gesto tardivo di ricostruzione identitaria. Come vedete è davvero una presa di posizione molto netta, un'identità da ricostruire da parte di Massimo Giannini, vice direttore della Repubblica, che si schiera apertamente con Walter Veltroni. Questo vi dicevo, e voglio ricordarvi che poi vi è invece un appello dei Nobel. Lottiamo per Saviano. Per Roberto Saviano, sì, Roberto Saviano è minacciato di morte dalla Camorra per aver denunciato le sue azioni criminali in un libro Gomorra, tradotto e letto in tutto il mondo. È minacciata la sua libertà, la sua autonomia di scrittore, la possibilità di incontrare la sua famiglia, di avere una vita sociale, di prendere parte alla vita pubblica, di muoversi nel suo paese. Lo Stato deve fare ogni sforzo, si legge in questo documento un appello dei Nobel, per proteggere e per sconfiggere la Camorra. Ma il caso Saviano non è soltanto un problema di polizia, è un problema di democrazia. La libertà della sicurezza di Saviano riguarda noi tutti come cittadini. La firma di questo documento è Dario Fo, Mikhail Gorbachev, Gunther Grass, Rita Levi-Montalcini, Orhan Pamuk, Desmond Tutu. Quindi, insomma, nomi di grande importanza che firmano questo appello per Saviano. Il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, come tutti i giornali, come vi dicevo, come tutti i giornali del mondo, apre su Colin Powell che sceglie Obama, la mossa dell'ex segretario di Stato di Bush, ma io volevo segnalarvi anche invece a pagina 9 un articolo tradotto di Paul Samuelson, che è un premio Nobel per l'economia e che parla dei 9 errori che sono stati commessi in quest'epoca, i 7 errori dei liberisti senza regole. Primo di questi errori, mai dimenticare le scelleratezze di George Bush in ambito geopolitico. In futuro la storia terrà conto di tutto ciò. Secondo, dopo l'elezione di Ronald Reagan alla Casa Bianca nel 1980, l'America è diventata sempre più una nazione di sperperatori di denaro, a livello familiare, a livello di corporation e a livello pubblico con i supply siders, i fautori dell'economia dell'offerta, della destra radicale. Terzo, il programma che va sotto il nome di conservatorismo compassionevole, promesso da George Bush, si è sostanzialmente tradotto in un piano di consistenti sgravi fiscali diretti, scrive Paul Samuelson, esclusivamente a gente ricca come i miei vicini. E poi ancora, la promozione mirata delle sperequazioni non è servita a rilanciare la produttività totale dei fattori negli Stati Uniti. Insomma, una serie di punti, vediamo il quinto, portiamo i revisori sul banco dei testimoni, ecco un altro punto di critica di Samuelson. Questi signori venivano pagati dalle stesse persone sulle quali avrebbero dovuto vigilare, e questa è davvero un'accusa molto grave che viene da un premio Nobel, e il Corriere della Sera gli dà molta, molta visibilità. E poi in prima pagina vi è un pezzo di Lorenzo Cremonesi che ci ricorda il nuovo attacco agli italiani. Un convoglio di soldati italiani, spagnoli e afghani è stato attaccato con colpi di arma da fuoco nell'ovest dell'Afghanistan. L'Afghanistan, terra davvero assai pericolosa in questi giorni. Tutti sono rimasti illesi. Per i nostri militari è il secondo agguato in due giorni, dopo l'attentato dei kamikaze di sabato presso Herat con 5 feriti. Stefania Zecchinelli che scrive di questo. E poi abbiamo invece un lungo servizio. Powell si schiera solo Obama e il nuovo, la pelle non c'entra, dice invece il premio Nobel Toni Morrison, lo stima per il suo messaggio. E ci sono anche qui, c'è anche una diciamo una geografia politica. Barr punta sui repubblicani, Hagel, Gates e Dasle, McCain, team bipartisan con Lieberman e Buffett. E insomma c'è una specie di, ne vedremo parecchie di queste geografie, diciamo, politiche in questi giorni in attesa delle elezioni negli Stati Uniti d'America. Il quotidiano La Stampa dà molta evidenza alle parole di Berlusconi. Sul clima non siamo isolati. Berlusconi va all'attacco. Il piano del governo, aiuti alle imprese per 10 miliardi. Sul clima non siamo isolati. Anzi, ci sono 9 paesi che la pensano come noi. Silvio Berlusconi rilancia deciso la posizione italiana sul clima. Oggetto della contesa con l'UE, la guerra di cifre sui costi. Ma di quel manipolo di stati l'unico alleato sicuro è la Polonia. Intanto il governo lavora a un piano anticrisi. Tra le ipotesi, aiuto alle imprese per 10 miliardi e rottamazione per auto ed elettrodomestici, come invece avete visto il Riformista sostiene che Sacconi a sua volta ha detto basta aiuti alla Fiat. Adesso mi fa 30.000 bimbi senza famiglia, e questo è il titolo, sono ancora sul quotidiano torinese La Stampa. La Chiesa è preoccupata per i 46.000 minori, circa 30.000 dei quali italiani, sono ancora senza famiglia, chiusi gli orfanotrofi con una legge del 2001, molti bimbi sono abbandonati perché le adozioni sono sempre più difficili. Dal santuario di Pompei, visitato ieri dal Papa, parte una campagna di sensibilizzazione per l'infanzia in difficoltà. Gli istituti ancora attivi sono soltanto 9, i nuovi centri non funzionano ancora. Monsignor Liberati, vescovo di Pompei, accusa. La politica li dimentica perché non votano. Beh, accusa pesantissima da parte di Monsignor Liberati. Questo il quotidiano della Stampa poi riprende una inchiesta pubblicata ieri sempre sulla Stampa a proposito della RAI, e l'inchiesta aveva come titolo RAI pubblicità flop, buco da 40 milioni. Capon replica in qualche modo, direttore generale della RAI, la crisi degli spot pesa, ma la RAI è sana. Però, insomma, 48% stime sul calo pubblicitario è il dato previsto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il calo scaturisce dal taglio degli investimenti da parte dei primi 20 super sponsor clienti di Viale Mazzini. Beh, non è poco. Se sono vere queste cifre, ci ha pensato lo stesso direttore generale della RAI, Claudio Capone, ha preso carta e penne e con scrupolosa attenzione aziendale ha inviato una lettera a tutte le strutture di Viale Mazzini, sottolineando l'improvvisa contrazione degli introiti pubblicitari. Problema serio dunque, che ho affrontato nel rispetto, spiega Claudio Capone, anche di chi nel futuro dovrà guidare la RAI. In previsione dunque quindi di cambiamenti alla direzione della RAI, Capone è consapevole, ma dice insomma questa è l'eredità che si prenderà chi arriverà al mio posto, e anche se dice la RAI è sana, però questo calo di pubblicità, che peraltro non riguarda solo la RAI ma riguarda tutta l'informazione, anche i quotidiani, beh comunque è un dato abbastanza pesante. Ecco, questo dalla Stampa, mi cade l'occhio anche su un altro servizio, PDL e Lega bacchettano i Lombardi, insomma Calderoli dice ai Lombardi, quindi Formigoni e Moratti, non si discute il federalismo, e l'UDC dice ma non ci credono nemmeno loro. Il tema, la polemica nella maggioranza, dopo la lettera di Formigoni penati Moratti al Presidente del Consiglio sui regali a Roma e Catania. Già la polemica nasce dal fatto che insomma federalismo, federalismo, ma poi a questo punto quando un comune è in crisi gli si danno soldi pubblici, allora finisce tutto il gioco che dovrebbe fondarsi sul fatto che chi è in crisi se la deve cavare un po' da solo. Questo è la sostanza. Io prima volevo rapidamente tornare un attimo sul giornale. Il giornale lancia una polemica e il TG1 di Riotta fa lo spot al camorrista, quindi anche una polemica bella viva. Scusate, ci siamo sbagliati noi. Noi che quando vi raccontiamo le cose più complesse ci preoccupiamo anche di come ve le raccontiamo, noi che cerchiamo sempre di evitare la melassa e i pasticci, il giornale in cui come di notte tutti i gatti diventano bigi. Abbiamo avuto l'impressione di esserci sbagliati proprio ieri quando abbiamo visto al TG1 delle ore 20 la lettera del boss camorrista tramutata in una sottospecie di pista teatrale, con il doppiatore che recita, il tono posato, il sospiro della battuta d'effetto. Abbiamo avuto paura di esserci sbagliati, perché quando sabato abbiamo deciso di pubblicare noi la lettera struggente di Giuseppe Setola, il boss latitante che invoca la cecità per giustificare la latitanza, non ci siamo riempiti il cuore di lacrime. Insomma, una polemica sul quotidiano, il giornale. Il giornale, il messaggero è molto attento, spesso lo fa, a questo fenomeno che è il bullismo, probabilmente perché a Roma il bullismo è un fenomeno abbastanza diffuso. E anche oggi Paola Vuolo ci scrive: rapinatori per noia, aggredito un trans. Due storie di violenza metropolitana nel giro di 24 ore. A Roma, nella zona del Prenestino, una banda di bulli ha minacciato con una mazza di ferro un trans e poi lo ha rapinato. Tra loro c'erano una minorenne e una studentessa. Rapitori hanno tra i 17 e i 21 anni, sono stati visti da un automobilista che li ha seguiti mentre chiamava i carabinieri, indicando ai militari la direzione di fuga del branco. I cinque giovani sono stati tutti arrestati, i maggiorenni saranno processati oggi per direttissima, tutti devono rispondere di rapina aggravata. A Flaminio invece, in piazza Mancini, uno studente è stato pestato a sangue da un altro minorenne e da un diciottenne che gli hanno portato via l'iPod. I due bulli sono stati individuati e presi dopo pochi minuti dalla polizia. Il ragazzo minorenne è stato fermato e portato al centro Virginia Agnelli. A precedenti per altri fatti analoghi, il maggiorenne è stato denunciato. Insomma, un fatto di cronaca che indica però che questo fenomeno del bullismo è... E poi il Messaggero, il quotidiano romano, con una certa malinconia scrive: la notte nera della Roma, l'Inter avalanga Ibrahimovic da spettacolo, anche la Lazio perde male, i nerazzurri volano e si prendono il primo posto dello scudetto. Questo interessante, un'intervista al ministro Frattini, sempre sul Messaggero. Frattini: bollino blu ai fondi sovrani, una sorta di bollino blu per i fondi sovrani che permetta di distinguere quelli in cui i investimenti sono benvenuti da quelli che vanno invece guardati con cautela. Così il ministro degli esteri Franco Frattini spiega il lavoro del Comitato Strategico per l'Interesse Nazionale in Economia, inaugurato con la sua missione negli Emirati Arabi Uniti. Il criterio chiave sarà la trasparenza. I fondi devono aderire a regole internazionali e puntare un investimento piuttosto che al controllo delle imprese, mantenendosi al di sotto del 5%. Queste le regole che ha intenzione di fissare il ministro Frattini a proposito dei fondi sovrani. Affari e finanza, l'inserto del lunedì di Repubblica, titola: il gioco dell'OPA selvaggia, incuba Piazza Affari, ma di società scalabili non se ne vedono. L'unica è Parmalat, Unicredit e Intesa sono al riparo, su Eni e Enel vigila lo Stato. Poi c'è la Fiat, ma comprereste l'auto con questi chiari di luna? Questa è la domanda che si fa a Giuseppe Turani, autore dell'articolo principale. Il Corriere Economia invece oggi si occupa dell'Europa, dell'Europa post Maastricht, perché di più potere ai governi dell'euro, aiuti pubblici sbloccati, patto di stabilità più flessibile e ancora meno vincoli sul patrimonio delle banche. Ecco come l'Unione Europea cambia assetto. Effettivamente, se tutte queste cose rimarranno, cambia di parecchio assetto. parte l'Europa post Maastricht, scrive il Corriere della Sera, il Corriere dell'Economia, scusate. Il crollo dei mercati ha rivoluzionato le regole, preparando il terreno per un diverso assetto politico finanziario. Questo vedremo se reggerà al tempo, ma è questo, è quello che comunque in ultimo, perché ho finito il mio tempo, il titolo dell'Unità: clima, l'Italia come la Bulgaria. E la il titolo polemico dell'Unità: Berlusconi si accoda ai paesi dell'est per dire no ai limiti decisi dall'Europa. E con questa segnalazione rapida dell'Unità io vi saluto e vi do appuntamento a domattina.